Come operatori europei noi siamo associati, tutti i più grandi operatori sono associati in European Lotteries, che è un'associazione che raduna 70-80 diverse società di gioco in Europa, e ci muoviamo a livello istituzionale con la FIFA, col CIO, con la UEFA. Di base è una cooperazione internazionale, è una cooperazione che poi vede presenti modelli di valutazione, di analisi del gioco che si sviluppano a livello europeo, a livello mondiale, in modo tale da avere sempre sotto controllo, nel modo migliore possibile, gli andamenti del gioco. È chiaro che questi controlli possono essere fatti e vengono fatti fra operatori legali, fra operatori riconosciuti dallo Stato, e di conseguenza possiamo essere d'aiuto e possiamo dare un contributo sostanziale se i consumatori hanno ben chiaro e ben presente quali sono gli operatori legali, dove è bene scommettere, dove è bene giocare, dove invece è meglio evitare. Quando si gioca o si seguono canali non ufficiali, non legali, poi fatalmente i dati non possono essere raccolti, i confronti non possono essere fatti e capita sovente che chi svolge azioni criminali poi si appoggia proprio su canali illeciti e di conseguenza fuori da qualunque tipo di controllo. Certamente una cosa importante è che tutte le organizzazioni internazionali che citavo prima lavorano tutte con Interpol in modo tale da seguire questi flussi di criminali, di finanziari criminali che girano per paesi anche extraeuropei, in modo tale da poter intercettarli e poter poi intervenire in modo efficace.